Fili è il Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno, un festival organizzato da Libera Bologna e da Libera Informazione, appunto alla sua quarta edizione. Un festival creato per provare a raccontare le mafie in un territorio che ancora si ritiene abbastanza immune dal fenomeno mafioso, nonostante i tanti processi, le operazioni, i beni confiscati presenti a Bologna. Quali sono, come dire, i contenuti di questa quarta edizione? Il tema principale di questa edizione sarà la corruzione. Come ogni anno abbiamo fatto un lavoro durato tutto l'anno, un lavoro collettivo con diverse ragazze e ragazzi di Libra per provare ad approfondire un tema specifico che racconti la presenza della criminalità e delle mafie sul territorio. Dopo aver lavorato sul narcotraffico e sul caporalato e lo sfruttamento lavorativo, quest'anno appunto il tema sarà quello della corruzione. Venerdì presenteremo il dossier Corruzione sepolta tra dinamiche corruttive e strumenti anticorruzione, in cui approfondiamo diversi casi di corruzione avvenuti sul territorio e proviamo a tracciare un po' le principali caratteristiche di un fenomeno che purtroppo emerge ancora poco, ma che è comunque presente sul territorio, provando a dare allo stesso tempo anche degli strumenti anticorruzione per far capire l'importanza della cittadinanza, del monitoraggio civico nel contrasto alle mafie e appunto ai fenomeni corruttivi. Ci saranno poi altri temi centrali, come sempre uno dei temi più importanti è quello della narrazione delle mafie, cioè come narrare un fenomeno che cambia, mafie sempre più difficili da individuare, mafie che sono state definite liquide, silenti e che però sono comunque presenti, quindi sarà appunto tema centrale quello del racconto attraverso diverse forme, dalla scrittura all'audio ai video, per provare a trovare nuovi strumenti che raccontino al meglio un fenomeno appunto difficile da raccontare ma anche da far emergere. Parleremo di femminismo come arma di rottura degli schemi mafiosi, che si collega poi a un tema importante, che è quello, un progetto importante di Libra, cioè quello di Libere di Scegliere, e parleremo di memoria, in particolare collegandoci al 2 agosto nella fase finale del processo Cavallini bis, collegandoci appunto alla difficoltà del trovare verità e giustizia per quanto riguarda le stragi del terrorismo, è un tema che si collega poi, una caratteristica comune, anche alle vittime innocenti delle mafie. Era proprio sul tema del femminismo come arma di rottura degli schemi sociali mafiosi che volevo farti una domanda, perché è un tema, come dire, per certi aspetti anche nuovo, perlomeno che non è tanto affrontato, insomma, a livello dell'informazione generale, invece è molto interessante. Sì, un tema interessante anche perché appunto ne partiremo dalla presentazione di un libro che racconta la lotta di alcune ricamatrici calabresi negli anni 70 che decidono di mettere fine ai soprusi subiti e di iniziare a reclamare i propri diritti. Un tema che però si collega a tante esperienze che stanno avvenendo in Italia in questi anni. Ci sarà ad esempio il gruppo Avele che racconterà il progetto di Intessere, un progetto di sartoria popolare che nascerà l'anno prossimo a Torino, e quello che collega, diciamo, queste esperienze è il riscatto della ricerca di un lavoro che sia degno di essere chiamato tale. Appunto l'anno scorso abbiamo parlato di sfruttamento lavorativo e di caporalato, e ci piace poi collegarci parlando invece di femminismo vero e proprio. Anche a Bologna stiamo accogliendo diverse famiglie composte da donne con figli che decidono di scappare dai contesti mafiosi, che cercano una nuova vita. Un progetto molto difficile, perché si tratta di ricreare un nuovo contesto sociale, di trovare lavoro, di trovare una casa, di creare altre condizioni, e che però crediamo sia uno degli strumenti più importanti per sostenere queste donne che appunto decidono di staccarsi dal contesto mafioso. I luoghi del festival sono vari, come si fa ad averne appunto una mappa? C'è tutto sul sito www.liberabologna.it, sull'evento Facebook del festival Fili 2019, Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno. Saremo a Trame, saremo al Dump Club, al Mercato Ritrovato e al Cassero come luoghi principali in cui appunto approfondiremo queste tematiche.